Radio 24 Reportage. Natale in mostra di Adriana Fracchia. Il 2019 è stato l'anno di Leonardo da Vinci. Per celebrarne i 500 anni dalla morte, molti sono stati gli eventi e le mostre dedicati al genio toscano e alle sue opere, come la riapertura della Sala delle Asse al Castello Sforzesco di Milano dopo 6 anni di attento restauro. Qui è allestita anche la mostra Leonardo mai visto, una delle più visitate in tutta Italia, si contano infatti già oltre 250.000 persone, e per questo l'apertura straordinaria della Sala delle Asse è stata prorogata fino al 19 aprile 2020. Sempre in onore del genio toscano, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano sono state aperte al pubblico le nuove Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente al mondo a lui dedicata. Oltre 1.300 metri quadrati con 170 tra modelli storici, opere d'arte, volumi antichi e installazioni che permettono di rivivere attraverso una scenografia spettacolare il percorso di Leonardo, ingegnere ed umanista. E al Museo Polli Pezzoli di Milano fino al 10 febbraio è allestita la mostra Leonardo e la Madonna Litta, in cui è esposto per la prima volta dopo quasi 30 anni il celebre dipinto dell'Ermitage, uno dei capolavori più preziosi del Museo Nazionale Russo. La Madonna Litta è strettamente legata alla città di Milano. Eseguita infatti nel capoluogo lombardo nel 1490 circa, l'Ermitage la acquistò nel 1865 dal duca Antonio Litta Visconti Arese. La direttrice del Polli Pezzoli, Annalisa Zanni. In realtà la Madonna Litta è stata uno scambio culturale con l'Ermitage, a cui il museo aveva prestato un dipinto di Piero della Francesca, il nostro dipinto San Nicola, per la loro mostra monografica l'anno scorso, e poi abbiamo avuto questa opportunità di avere questo prestito. Cioè, la Madonna Litta ha senso nel nostro museo perché Gian Giacomo Polli Pezzoli si era creato una collezione di dipinti di artisti che avevano lavorato nell'atelier di Leonardo, e quindi noi tutti siamo convinti che probabilmente mi cercasse anche di trovare un Leonardo, ma ha trovato la Madonna del Fiore di Boltraffio, che era l'allievo più talentuoso di Leonardo, che lui ha acquistato e che è davvero splendida. Le celebrazioni leonardiane lasciano via via il posto a quelle dedicate ad un altro grande artista del Rinascimento, Raffaello Sanzio. Nel 2020 ricorrono infatti 500 anni dalla morte del grande maestro di Urbino, morto il 6 aprile del 1520. Il lungo calendario di celebrazioni parte proprio da Urbino, da Palazzo Ducale, sede della Galleria Nazionale delle Marche. E a Milano la grandezza di Raffaello la si può già assaporare dal marzo scorso alla Pinacoteca Ambrosiana, dove è stato nuovamente esposto dopo il restauro il raro cartone preparatorio della scuola di Atene. Sempre a Milano, fino al 15 marzo prossimo, alle Gallerie d'Italia, in Piazza della Scala, è allestita la mostra Canova Thorvaldsen, la nascita della scultura moderna. Uno dei curatori, Fernando Mazzocca. Io direi che anche per l'immenso sforzo di produttivo, di studi, il tempo che abbiamo impegnato a prepararlo, anche per i costi, sia una mostra veramente epocale, storica, perché è difficile radunare tante sculture così tutte insieme da ogni parte del mondo. Per far capire una cosa, che grazie a Canova, che poi fu seguito da Thorvaldsen, la scultura è stata veramente trasformata, facendola diventare un'arte alla portata di tutti, perché loro, poi ispirandosi alla grande scultura antica e al mito, hanno trattato questi grandi temi dell'amore, della morte, della vita e della bellezza, rappresentandoli in opere che sono diventate un po' popolari ai pubblici di tutto il mondo. Canova è conosciuto ovunque, e quindi la mostra rappresenta questa straordinaria svolta storica in cui la scultura cambia completamente e assume dei procedimenti che poi saranno adottati da tutti gli scultori che verranno dopo. Al MUDEC, il Museo delle Culture, sempre a Milano, doppia mostra, una dedicata al giapponismo, ovvero all'influenza che l'arte del paese del Sol Levante ha avuto sulla produzione artistica dell'Occidente. Fino al 2 febbraio 2020 è in programma Quando il Giappone scoprì l'Italia, storie di incontri. L'altra, Impressioni d'Oriente, arte e collezionismo tra Europa e Giappone, sempre al MUDEC fino al 2 febbraio 2020, ripercorre invece l'appeal che il Giappone ha esercitato sulla cultura occidentale, analizzando le dinamiche degli scambi artistici tra il 1860 e il 1900. Ancora al MUDEC, fino al 15 marzo 2020, le immagini di un grande fotografo del nostro secolo nella mostra Ilio Terwitt Family, 60 scatti del grande fotografo americano che nei suoi 91 anni di vita ha documentato tutte le sfaccettature di un concetto così inesprimibile come quello della famiglia. Le foto sono state selezionate dallo stesso Terwitt e da Biba Giacchetti, curatrice della mostra, promossa da 24 Ore Cultura, gruppo 24 Ore, e aperta fino al 15 marzo 2020. Abbiamo chiesto ad Elliot di porre il suo ineffabile sguardo sul tema della famiglia. Naturalmente quello che vedremo qui sono delle fotografie di tipologia molto diversa, alcune veramente molto divertenti, ironiche, surreali, con dei finali aperti, altre invece con la sua cifra più romantica, e infine altre foto che invece hanno un po' toccato varie fasi della storia del mondo. È una voce unica, proprio perché tutta la sua carriera, tutto il suo percorso si è svolto guardando l'essere umano, i sentimenti degli esseri umani, i loro piccoli accidenti, e anche quando ha narrato la storia del mondo. Qui in mostra, per esempio, abbiamo la fotografia del funerale di Kennedy, lo fa alla sua maniera. E ora andiamo a Genova, dove fino al 26 aprile 2020, nelle sale espositive del secondo piano di Palazzo Bianco, è allestita la mostra Sognare il Settecento, abiti e arti decorative del XVIII secolo nelle collezioni genovesi ottocentesche. Esposti anche alcuni tra i più interessanti abiti settecenteschi della collezione Zerega, donata al comune nel 1917. In particolare abiti maschili, caratterizzati da ricami e stoffe di grande pregio. L'assessore alla cultura del comune di Genova, Barbara Grosso. Il corso della visita prende in considerazione due importanti raccolte che testimoniano quella che è stata sicuramente la passione per la produzione di tutti quelli che sono gli indumenti raffinati del secolo dei lumi, quella della famiglia Luzzoro e quella del console britannico Yates Brown, dedicata invece al mondo delle ceramiche. E c'è poi una sala dedicata all'esposizione di alcuni tra i più interessanti abiti della collezione Zerega. Sono dei veri capolavori di tessitura di ricamo. Ed è anche molto buffo vedere come in realtà questi abiti fossero molto piccoli, anche le forme degli abiti stessi fossero veramente differenti da quelle che sono poi invece le sembianze delle persone invece di oggigiorno. E se Livorno celebra il suo concittadino Amedeo Modigliani nel centenario della sua scomparsa con la mostra intitolata Modigliani e l'avventura di Montparnasse, capolavori delle collezioni Nettere Alexandre, su progetto di Sergio Risaliti, a Lucca invece alla Fondazione Ragghianti, allestita nel complesso monumentale di San Micheletto fino al 6 gennaio 2020, un'esposizione dedicata al pittore veneziano Bernardo Bellotto, nipote di Canaletto. La mostra si intitola Bernardo Bellotto, 1740, viaggio in Toscana. La curatrice della mostra, Bozena Anna Kowalczyk, tra i maggiori studiosi di Canaletto e Bellotto. È il primo viaggio di un giovanissimo Bellotto fuori Venezia. Bellotto studia la pittura di vedute nell'atelier di Canaletto ed è un fedele seguace di Canaletto in quello che fa a Venezia, ma poi a 18 anni viene invitato in Toscana e qua succede un miracolo, dimostra la sua totale autonomia, anche se segue i metodi costruttivi, i metodi di ripresa prospettica di Canaletto con un rigore eccezionale per un giovanissimo artista. E Lucca ha voluto fare un omaggio a Bellotto con questa mostra, perché l'unico dipinto di Lucca che ha un valore artistico grandissimo è una veduta della piazza San Martino con la cattedrale di Bellotto, ora al Museo di York. Questo dipinto che mostra Lucca nel Settecento così come adesso, che praticamente nulla è cambiato, una città fortunata. E ora ci spostiamo nella capitale, dove nel Chiostro del Bramante fino al 23 febbraio del 2020 è allestita la mostra Bacon e Freud, la scuola di Londra, opere della Tate. Natalia De Marco, direzione d'arte Chiostro del Bramante. Alla seconda collaborazione del Chiostro del Bramante con Tate Gallery di Londra, siamo molto contenti, abbiamo per la prima volta un prestito eccezionale di circa 40 opere, di cui la maggior parte riguardano due pittori straordinari, due giganti dell'arte contemporanea, Lucian Freud e Francis Bacon, per la prima volta presentati insieme, per cui la mostra si articola proprio per far capire che cos'era Londra di quegli anni, in una realtà artistica che ha rivoluzionato il modo di vedere l'arte contemporanea. A Palermo, infine, fino al 12 aprile 2020 al Museo Civico di Castelbuono si può visitare la mostra itinerante Migration, coprodotta da tre musei. Laura Barreca, direttrice del museo e curatrice dell'esposizione. Migration è una mostra che nasce da una coproduzione con due musei, che sono lo Stadtmuseum di Düsseldorf e il Gianco Dada Museum di Haifa in Israele. È una collettiva dove saranno poste le opere di sei artisti, di Oren Fischen ad Armitz, Margherita Moscardini, Edith Ehlers, Klaus Richter e Francesco Simeti. E sono sei artisti di nazionalità appunto italiana, tedesca, israeliana, che abbiamo scelto proprio per parlare di questo tema, che è un tema che oggi, diciamo, a cui non si può più voltare le spalle, e non possono farlo neanche i musei, che sono in realtà i principali interpreti di quello che è diciamo il nostro presente storico e la nostra contemporaneità. Questa è una mostra che affronta il tema della migrazione in termini positivi, costruttivi. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.